Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 11 ottobre, il sole in regione sorto alle 7.20 e tramonterà alle 18.27. Venerdì c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Scampato pericolo, le ipotizzate supergiacenze di vino anche nelle cantine del Friuli Venezia Giulia avevano fatto ipotizzare a distillazioni forzate, vendemmia verde e stoccaggi. Nulla di questo, in quanto il mercato ha ripreso dinamicità negli ultimi mesi, riportando la situazione sotto controllo. Ne parliamo nel servizio di apertura, per passare poi al corsivo di Enos Costantini, che torna sui temi del mangiare tradizionale al posto di snack e merendine. Stanno arrivando i nuovi fondi per le filiere agricole anche nella nostra regione, nella rubrica delle normative, importi e scadenze. Ultima puntata poi della serie dedicato a olio e olivi, con le considerazioni sulla qualità dell'olio regionale. Per la rubrica della frutticoltura siamo alla seconda puntata dedicata alle mele e ai possibili sbocchi alternativi di questo importante mercato. Ancora il parco del Castello di Miramare, tra agrumi in vaso e grandi alberi, nello spazio che dedichiamo ai giardini. In chiusura, come di consueto, andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio di Vita nei campi. La grande paura, a quanto pare, è passata. Stiamo parlando del timore che la crisi economica innescata dalla pandemia da coronavirus lasciasse le cantine piene del vino 2018, tanto da ipotizzare distillazioni e vendemmie a verde. Il mercato però in questi ultimi mesi si è ripreso, come ci conferma Rodolfo Rizzi, presidente di Assoenologi del Friuli Venezia Giulia. Non c'è stato quel grosso timore che avevamo di giacenze, quindi interventi ministeriali su vendemmia verde, distillazione obbligatoria, stoccaggi e quant'altro, ma ci siamo accorti che con l'andare del tempo il mercato si è mosso e la cantina Italia è fortemente calata come giacenza. Infatti a metà settembre avevamo una giacenza pari a 34 milioni di ettolitri con un 4% in meno rispetto al 2019. Questo ha fatto sì che ci siano state delle trattative molto interessanti e soprattutto ci sia stato anche un guadagno da parte dei vignaioli. Quali i dati per il Friuli Venezia Giulia? Se teniamo conto che il 58% delle giacenze è al nord Italia e il 24% lo ha il Veneto, il Friuli Venezia Giulia ha il 3,6% delle giacenze, quindi una giacenza ridotta rispetto allo scorso anno e in linea con gli andamenti di mercato, perché bisogna tener conto che la vendemmia ci rimpiazza le cantine di vino nuovo, ma dobbiamo vendere ancora fino ai mesi di aprile il vino della passata stagione. Il ruolo della grande distribuzione ha giocato un ruolo importantissimo, perché i consumi non sono calati, anzi forse qualcosa è aumentato, ma è aumentato il consumo familiare, quindi le persone si sono approvvigionate di vino nella grande distribuzione. La grande distribuzione ha aumentato fortemente l'offerta dei propri prodotti e dobbiamo sempre tener conto che anche i una bottiglia, che molte volte il prezzo ci sembra anche irrisorio, in effetti c'è una promozione ma c'è sempre una qualità del prodotto. Quali le prospettive per la nuova campagna vitivinicola? Ma dobbiamo sicuramente fare un po' il punto della situazione, perché se la nostra regione con la produzione di quest'anno che si aggirerà attorno a un meno 5% rispetto allo scorso anno, ma con una presenza forte e massiccia di Pinot Grigio e di Prosecco, che sono due cavalli vincenti per quanto riguarda le richieste di mercato, abbiamo però delle problematiche legate soprattutto alla ribolla gialla, a questi 2.000 ettari messi a dimora così un po' avventatamente, e alla glera che non è ancora oggi riconosciuta a Prosecco. Quindi noi dovremo fare una campagna sicuramente di punto della situazione promozionale. Chi ha salvato la stagione? Lo abbiamo chiesto a Giorgio Colutta, vignaiuolo in quel di Manzano e attivo sul mercato dell'export. Diciamo che dopo due mesi piuttosto preoccupanti come marzo, aprile e maggio, che sono stati veramente di blocco totale nel settore della ristorazione, dei bar e quant'altro, direi che la bella stagione, quindi il bel tempo, il turismo locale unitamente alla riapertura dei locali hanno aiutato, diciamo, le aziende della nostra tipologia, quindi quelle che si rivolgono principalmente alla ristorazione, a salvare la stagione. Come sta andando l'export? Diciamo che noi abbiamo cercato di impostare l'azienda su mercati diversi. e sta ripartendo anche questo positivamente, con delle aree diciamo un po' più rallentate, ma comunque sta ripartendo. Certamente non siamo come gli anni scorsi o l'inizio dell'anno che c'era una grande crescita, però sta andando positivamente, quindi confidiamo che il fine anno ci faccia recuperare ciò che abbiamo perso nella primavera. Ci sono ancora mercati in sofferenza? Sono quelli dove purtroppo la pandemia sta ripartendo, chiaramente, perché la ristorazione soffre e anche i numeri comunque sono contenuti, perché i ristoranti devono lavorare al 50% e questi sono un po' i mercati in sofferenza, come gli Stati Uniti per esempio. Quali i volumi che siete riusciti a vendere in queste ultime settimane? Abbiamo recuperato in termini percentuali, stiamo piano piano avvicinandoci a un pareggio dello scorso anno e quindi confidiamo nel recupero, come dicevamo, di questi mesi buoni, anche se per noi che siamo bianchisti come regione i mesi buoni sono chiaramente la primavera, che abbiamo perso praticamente quasi totalmente. Enos Costantini nel suo corsivo di oggi torna sul mercato delle merendine e degli snack e propone come sostituirli rispettando salute e tradizione. L'acqua assieme alle nubi è il più grande spettacolo di cui il grande artefice dell'universo ci ha gratificati. Stavo un giorno a godermela sulla riva di uno dei nostri fiumi più belli quando approdano sulla spiaggia una dozzina di canoisti visibilmente soddisfatti delle loro performance. I loro mezzi e le loro monture high-tech sono un buon esempio di quello che può fare l'ingegno umano quando è indirizzato al bene. Quale non fu la mia sorpresa, però, quando vidi questi superuomini rifocillarsi scartocciando patatine e merendine della qualità più infima che l'ingegno umano abbia mai potuto concepire. Il mangiare in compagnia, soprattutto dopo un'attività fisica, è uno degli aspetti più belli del vivere civile. Non è solo questione di recuperare energie. Svilire tutto ciò con cartocci fruscianti di plastica e stantii contenuti glucidico-lipidici al cloruro di sodio, conditi con aberrazioni di chimica organica, è un grosso segno di decadenza sociale e di deculturazione alimentare. Una perdita di cultura, perché lo stare assieme è cultura. Nella mia mortificazione pensai che lì nei pressi vi sono un paio di trattorie, le quali, con prezzi sopportabili, attingono l'esperienza delle nostre donne col sostegno dell'orto e dei prodotti locali. Se poi i tempi, la logistica, la carenza di contante ne impedissero l'approccio, io dico che, come si portano presso cartocci fruscianti di polimeri, lo stesso si può fare con le uova sode, che sono il miglior cibo per superuomini e anche per la gente normale. Lo stesso dicasi per altri cibi della nostra tradizione, da sempre i cibi della convivialità, che significa anche condividere con chi passa nel vicino sentiero. Una volta era un piacere affettare un salame o tagliare un'esclese di formaggio e mescere un tai di vin con estranei che ricambiavano, magari solo con un sorriso. Ora, pensare di offrire qualcosa che ha l'aspetto viscido del peggior cosmetico in un cartoccio al polietilene può essere ricambiato solo con un sorriso di commiserazione e di gentilissima pena, come per chi ha perso la fede. Il governo li aveva promessi e finalmente sono arrivati. Con Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, parliamo oggi degli aiuti straordinari alle filiere agricole italiane. Sì, anzitutto è bene precisare che le fonti normative sono diverse. Prima ancora dello scoppio della pandemia, la legge 27 dicembre 2019 numero 160 aveva già istituito un fondo per la competitività delle filiere. Più tardi, con il cosiddetto decreto rilancio del 19 maggio, è stato rimodulato nel fondo emergenziale per le filiere in crisi per gli effetti del blocco dei mercati e della contrazione dei consumi in piena pandemia. E di quali filiere si tratta e per quanti soldi? Il 3 aprile scorso il ministro aveva stanziato 29 milioni e mezzo di euro su varie filiere. Di nostro interesse sono gli 11 milioni sulla filiera del mais e 9 per quelli della soia. In pratica si tratta di un aiuto a superficie per gli agricoltori che possono dimostrare di aver sottoscritto contratti di coltivazione di durata almeno triennale con soggetti trasformatori, anche per tramite di consorzi, cooperative, sicattoi, centri di raccolta, eccetera. Poiché il budget è limitato, l'importo esatto dell'aiuto si conoscerà solo dopo la presentazione delle domande. Il decreto pone un tetto massimo di 100 euro per ettaro, ma evidentemente dipenderà dal numero delle domande e soprattutto dal numero di ettari complessivamente contrattualizzati. Però ci sono aiuti anche per la zootecnia. Qui c'è un altro decreto del 23 luglio che ha stanziato 65 milioni di euro, dei quali 30 per la filiera suinicola, 4 per la cunicola, 9 per quella ovicaprina, 20 per le carni di vitello e 2 milioni per il latte di bufala. In terra friulana direi che le misure di interesse sono quelle che riguardano i suini e i conigli. E in questo caso a quanto ammonta? Si prevedono fino a 20 euro per ogni maiale nato, allevato e macellato in Italia nel periodo fra il 1 maggio e il 30 giugno 2020. Per le scrofe allevate nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 giugno c'è un premio massimo di 18 euro per capo. Per i conigli invece è riconosciuto un aiuto fino a 1 euro per ogni capo nato, allevato e macellato in Italia, ma anche in queste filiere, ribadisco, gli importi si intendono come tetto massimo nei limiti del budget a disposizione. Scadenze. I tempi sono stretti, le domande delle filiere dei mais a soia, la scadenza è fissata per il 16 di ottobre, anche se tutti auspicano una proroga. Per le filiere zootecniche il termine ultimo è il 27 ottobre e per le pratiche gli interessati devono rivolgersi quanto prima possibile presso i centri di assistenza agricola. Anche la rubrica su oli e olivi che ci ha curato Ennio Scarbolo è arrivata al capolinea e oggi una serie di considerazioni finali sull'olio del Friuli Venezia Giulia, che secondo lui è ottimo. Dopo tutto questo gran parlare, com'è l'olio di oliva che producono gli olivicoltori nella nostra regione? Senza dubbio ottimo. Perché? Le cultivar che si coltivano nella nostra regione sono fra le migliori d'Italia, in particolare la cultivar autotrofa bianchera, che è sicuramente fra le migliori 10 al mondo. L'olio che ne deriva ha un contenuto di acido oleico prossimo a oltre l'80%, è fruttato, piccante, amaro, con un elevato contenuto di polifenoli. L'altra cultivar autoctona è il Gorgasso, che produce un olio fruttato e piccante, che ben si amalgama con un blend con l'olio proveniente da altre cultivar di origine umbro-toscana, nel lago di Garda, in particolare la cultivar Grignan. Fino agli anni 80-90 i frantoi in regione erano solo due a Trieste e iniziavano a molire le olive subito dopo i Santi, dopo la festa del 4 novembre. Le olive provenienti da queste cultivar, la maturazione media e precoce, erano stramature e producevano un olio difettato che purtroppo veniva miscelato con quello proveniente da cultivar tardive come la bianchera. Miscelando un olio difettato con un olio integro, dopo alcuni giorni avrò un olio tutto difettato. Da alcuni anni tutti i frantoi regionali, sia quelli privati che sono una quindicina, sia quelli pubblici che sono 5, su sollecitazione di tutti i tecnici agrari che hanno fatto e che fanno assistenza tecnica in olivicoltura e dell'aiotecnica, aprono un mese prima, inizio dell'ottobre. È indispensabile la prenotazione al frontaio per la molitura delle olive in modo tale da non dover stoccare le olive per molto tempo, al massimo 12-24 ore, per ottenere un ottimo olio extravergine. ERSA, Università di Udine, tecnici della Dr. Geste e Olea hanno contribuito a creare nella nostra regione la cultura dell'olio extravergine di oliva attraverso l'assistenza tecnica in campo ed in frantoio, dalle numerosissime analisi chimiche e sensoriali al finanziamento e all'organizzazione di una quindicina di corsi di assaggio olio. In regione ci sono circa 120 esperti assaggiatori d'olio iscritti presso le Camere di Commercio, 500 assaggiatori che hanno partecipato ai corsi di idoneità all'assaggio di oli e moltissimi hobbisti che hanno partecipato a incontri informali di approccio all'assaggio di oli proveniente anche da altre realtà olivicole. Per finire, un buon extravergine di oliva va consumato crudo sui cibi. Seconda puntata dedicata alle mele, un frutto importante nel panorama della frutticoltura della regione, per cui il professor Raffaele Testolin, che all'Università di Udine insegna frutticoltura, ha preferito dedicargli anche questa seconda puntata. Oggi la melicoltura industriale friulana è fatta di aziende gestite spesso da altoatesini che coltivano varietà moderne, omologate in quella melicoltura dove tutti producono Golden, Gala, Fuji. Ma le mele sono tante, sono circa 10.000 e in Friuli c'è una miniera di vecchie varietà dai gusti e dai profumi dimenticati. Si tratta di mele scambiate in tutta Europa da migranti che, trovata una mela di valore, al rientro a Natale per le feste portavano delle marze, calmelle in friulano, che cedevano al compare perché gliele innestasse su qualche selvatico, sicuro di trovare al rientro dalla lunga migrazione una varietà tutta sua che non aveva nessun altro in paese. Quante di queste storie sono state raccontate da personaggi come Elio Englaro di Treppo Carnico, il maestro Molfetta di Sutrio o Duilio Caccitti di Caneva di Tolmezzo, tanto per ricordarne qualcuno. Le ricoltiviamo per il mercato globale? No, di certo. Dobbiamo trovare delle nicchie che possano mettere insieme cultura, tradizione e reddito. Pensiamo al sidro di mele, una specialità la cui produzione possiamo rivivere a Tolmezzo in occasione della festa della mela. Siamo degli specialisti di lunga tradizione, ma, come dice Elisio da Pozzo, patron di Ecomela Averzegnis, succo, sidro e aceto non si possono fare con gli scarti del mercato fresco. Servono varietà appropriate e processi tecnologici in grado di caratterizzare e qualificare il prodotto. Ecco una nicchia importante per il melo. Un'altra nicchia è la coltivazione di alcune vecchie varietà adatte alla produzione di prodotti della tradizione come le gubane, gli strucchi, gli strudel. I ristoratori non aspettano altro che avere queste mele. Bisogna organizzare la catena e questa è un'altra nicchia. Ai produttori friulani raccogliere la sfida. Nel parco del castello di Miramare, tra agrumi in vaso e grandi alberi. Di questo ci parla oggi Franca Merluzzi nella sua rubrica dedicata ai giardini. Massimiliano d'Asburgo, che amava il mare e i giardini mediterranei, aveva un sogno: coltivare gli agrumi a Miramare, nel parco del castello. Il suo tentativo purtroppo fallì. Le piante a terra non resistettero alle intemperie e morirono. Ora che il parco è protetto da zone boschive e il clima è cambiato, la direttrice Andreina Contessa ha preannunciato che il parterre delle Serre Nuove sarà abbellito da agrumi in vaso, con antiche varietà di aranci amari dai fiori profumatissimi. Nel periodo più freddo verranno portati all'interno. Il desiderio di Massimiliano si sta dunque realizzando, ma anche altri interventi nel parco tengono presente il progetto originario dell'Arciduca. Dal viale principale d'accesso si può imboccare di nuovo il sentiero panoramico e si scopre che le potature del sottobosco e delle chiome consentono di vedere da più angolature il castello e il mare proprio come voleva l'Arciduca. Oggi poi, dal viale dei Lecci, dalle terrazze e da molti altri punti, si può ammirare la barcolana con le barche qui al terzo giro di boa. Belle anche le vedute sul porticciolo di Grignano e sul golfo visto dall'alto. Vicino alle grandi serre si nota una rarità, un corbezzolo dal tronco rossiccio e la grande chioma che, stando ad Andrea Maroè, esperto di grandi alberi, è un corbezzolo greco innestato su uno comune ai tempi di Massimiliano, notoriamente appassionato di botanica. All'epoca qui si sperimentò la riforestazione con il pino d'Austria, ma nel parco sono presenti anche il pino domestico, il pino d'Aleppo e il pino di Sabine, che si tramanda fu l'arciduca stesso a importare dal Messico. È alto 18,70 m, misurato in arrampicata dagli esploratori della GTF Onlus di Tarcento, e unico in regione di tali dimensioni. Alcuni di questi grandi vecchi hanno oltre 160 anni e qualcuno risente dell'età. Un progetto in corso prevede la conservazione del genoma di alcuni esemplari. Con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento con mercato attivo e prezzi in rialzo. Venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole da cambio di commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,50 a 16,70 euro al quintale IVA esclusa. L'orzo, con peso specifico 60-63, tra 15,50 a 16 euro. Il frumento tra 18,40 a 18,70. E la soia nuovo raccolto è quotata tra 37,70 e 38 euro. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 90 centesimi e la soia di 5,30 euro il quintale. Scambi discreti all'ortofrutticolo di Udine con quotazioni diversificate. L'insalata Gentile viene pagata da 1,20 a 1,30 euro il chilo IVA esclusa. La lattuga Trocadero tra 1,30 e 1,40. Le zucchine da 2,60 a 3 euro. I peperoni gialli e rossi tra 1,40 a 2,70. I pomodori in grappolo tra 2,20. I finocchi tra 1,10 e 1,60. I cavoli tra 1,50 a 2,40. Il radicchio rosso tondo tra 1,50 e 1,60. Quello di Treviso precoce tra 1,70 e 1,80. Il variegato tra 1,70 e 2 euro. Le mele golden tra 0,80 e 1,50. Le pere Williams tra 1,80 e 2 euro. L'uva tra 1,10 e 2,50. Le castagne tra 3,50 ai 4,50. I cacchi da 2 a 2,60. Passando ai bovini, da macello, nessuna novità di rilievo nelle quotazioni. Le vacche fine carriera di prima qualità sono pagate a peso morto tra 2,20 e 2,60 euro al chilo IVA esclusa. Mentre il mercato dei vitelli da ristallo si stabilizza e l'ultimo andamento rileva i Blue Belga maschi quotati tra 5,80 e 6,40 euro al chilo IVA compresa. I pezzati rossi tra 4,60 e 5,10, i frisoni tra 1,40 e 1,70 e i bruni tra 1,30 e 1,60. Prosegue il buon andamento nel comparto suinicolo, con il valore delle attonzole di 30 kg franco partenza fissato a 2,44 euro il chilo IVA esclusa e i grassi da macello a 1,53 euro il chilo. Stabilità nel settore dei foraggi, dove il fieno Mazzengo di pianura e l'erba medica vengono pagati in media tra 19,60 e 20,20 euro il quintale IVA esclusa, mentre la quotazione della paglia di cereali pressata oscilla tra 12,10 e 12,60 al quintale. Infine, nel settore degli avi cunicoli si segnala un mercato in salita, dove i poli a terra vengono pagati tra 1,07 e 1,09 euro il chilo IVA esclusa, i tacchini maschi tra 1,30 e 1,32, le anatre tra 2,30 e 2,34, le faraone tra 2,15 e 2,25, i conigli oltre 2 kg e mezzo tra 2,08 e 2,14, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è 17 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Osmer, Arturo Puccillo, adesso sentiamo cosa ci riserverà il meteo nella settimana entrante. Ottobre è iniziato con temperature leggermente sotto la media del periodo e con precipitazioni intense, specie sulla zona montana, dove si sono osservate in quota anche delle nevicate. Dopo alcuni giorni di stabilità, l'arrivo in quota di una depressione dal nord Atlantico e la formazione di un minimo barico sull'Adriatico sta portando un peggioramento con piogge abbondanti e boraforte sulla costa, e sono attese anche nevicate abbondanti, probabilmente fino a Fondovalle nel Tarvisiano e oltre 1300 metri circa in Carnia. Domani la depressione ci lascerà nel corso della giornata, conseguentemente avremo un miglioramento, ma sulla costa soffrirà ancora bora, specie al mattino. Martedì avremo cielo sereno poco nuvoloso, freddo al mattino anche in pianura, con minime di pochi gradi sopra lo zero, durante il giorno massime a far 15 e 17 gradi. Mercoledì è probabile l'avvicinamento di una nuova depressione atlantica, che provocherà un aumento della nuvolosità, specie al pomeriggio, e le temperature minime risaliranno di alcuni gradi. Giovedì sembra essere caratterizzato da piogge sparse, nevicate in quota oltre 1500 metri circa, e probabilmente sulla costa tornerà a soffiare buona moderata. L'evoluzione per la fine della settimana è ancora incerta, ma si intravede l'arrivo di altri sistemi depressionari sulla regione, con probabili piogge. Come sempre però vi invitiamo a seguire aggiornamenti quotidiani delle previsioni di Osmer ARPA. Termina qui la puntata. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana. Io soi ottobre strac, chiapi lievri e il corvat. Ovvero, io sono ottobre stanco, demotivato, prendo la lepre e il corvo. Dunque, quello che mi capita, la lepre che è buona e il corvo che non ha carne buona da mangiare. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.